Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Afferrano, sfiorano, spostano, stringono, salutano, accarezzano e poi scrivono, giocano, nascondono, plasmano, dipingono, volteggiano, svelano. Buongiorno a voi, da Nicoletta. Oggi parliamo delle mani. Questo è il signor Pollice, grassoccio e posa piano. Questo è il signor Indice, che segna da lontano. Medio si presenta di massima statura. Anulare porta anelli su misura. Mignolo, guardate che buffo, che piccino. È grande come il nasino del mio bel bambino. E con questa trocca scritta per noi da Alberto Pellai, guardiamo le dita, guardiamo le nostre dita. Il pollice un po' tozzetto, il medio che è il più lungo, il mignolo piccolino. Le dita delle mani, lo sappiamo, sono diverse per lunghezza e dimensioni, lo sappiamo tutti, ma il professor John Manning, ricercatore della Scuola di Scienze Biologiche dell'Università di Liverpool, sulla lunghezza delle dita ha costruito davvero tanti studi ed è diventata proprio oggetto del suo interesse. Ha compiuto numerosi studi che poi ha pubblicato in un libro. Ma che cosa gli interessa? Secondo il ricercatore, la simmetria delle dita può, pensate, raccontare molto del carattere e anche della salute della persona. La comunità scientifica non è completamente d'accordo, ma a questo punto io voglio raccontarvi la storia dell'indice e dell'anulare, e mi faccio aiutare dalla dottoressa Maria Giovanna Luini, che è responsabile della comunicazione scientifica dell'OIEO. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, c'è un indice e c'è un anulare. C'è un indice e c'è un anulare, intanto misurateli, perché a quanto pare la differenza tra indice e anulare è importante e dice tante cose. La base è che, a quanto pare, l'anulare si sviluppa nella vita intrauterina, quindi quando il feto si sta crescendo, grazie al testosterone, cioè all'ormone maschile. Sì. L'indice invece è stimolato dagli estrogeni, dagli ormoni femminili. E qui si apre un mondo, perché sì, a quanto pare lo sviluppo dell'anulare è molto legato alle caratteristiche maschili della persona e lo sviluppo dell'indice è legato alle caratteristiche femminili. È più lungo l'anulare oppure più lungo l'indice? La persona a quanto pare ha determinate caratteristiche proprio sulla base dello sviluppo di queste dita e quindi degli ormoni che sono stati coinvolti nella vita uterina. C'entra anche con le malattie, c'entra con la sensibilità della persona. È evidente che un indice più sviluppato sembra indicare una persona molto più sensibile, una persona che, se è donna, si dedica agli altri, quindi per esempio fa professioni umanitarie, pare che sia un'ottima casalinga, infatti il mio indice non è particolarmente sviluppato, e però è anche suscettibile all'asma. Forse un po' più suscettibile a tumori del seno in stadio precoce. Nel caso dell'uomo, che ha un indice più sviluppato, sembra più propenso purtroppo ad avere problemi cardiologici in giovane età. Ed è una persona in media più sensibile anche dal punto di vista del carattere. Sì. Chi ha un anulare più sviluppato ha caratteristiche più mascoline, quindi nell'uomo è facile immaginare quali possano essere queste caratteristiche mascoline, che riguardano però non solo il corpo ma anche l'approccio mentale, quindi una maggiore solidità, una maggiore concretezza e una visione del mondo un po' più tipica degli uomini. Devo dire che ho Roberto Scaltriti in regia la parte tecnica, che si sta osservando con attenzione, misurando l'indice e l'anulare. La stessa cosa hanno fatto i nostri colleghi ieri, quando insieme a Laura Vanossi volevamo appunto aprire la puntata con la misurazione di queste dita. E io, dottoressa Gatti, ho notato che mentre noi donne, le colleghe, dicevano ma sì, in effetti il mio indice è un po' più lungo e la cosa finiva lì, gli uomini erano molto attenti alle misure del loro anulare. Insomma, le misure per gli uomini sono quasi un'ossessione. A quanto pare le misure indicano qualcosa anche della loro identità, però devo confessare che appena ho letto questo libro ho misurato le mie dita e ho qualche dubbio, perché a quanto pare chi ha un indice sviluppato è un ottimo medico e io ho l'anulare un po' più lungo invece. Allora, grazie dottoressa per essere stata con noi. Tra l'altro io ricordo, a proposito di noi continueremo a parlare di maniche, uno dei suoi romanzi, perché lei è anche scrittrice, Cosa fanno le tue mani, dell'Historica Editore, è stato tradotto nella lingua dei segni italiana. Eh sì, che è una lingua che usa tantissimo le mani. Io credo molto all'uso delle mani, sia nell'espressione, nella comunicazione, ma anche nella cura. Vorrei citare un altro libro, per non citare sempre se stessi, che è Una carezza per guarire, di Umberto Veronesi. La carezza viene fatta con la mano e la carezza è una cura. Grazie alla dottoressa Luini per essere stata con noi. 800 24 00 24. Fatelo con l'indice, non so se è più lungo o più corto dell'anulare, ma questo è il nostro numero verde. Se sei un amico ti stringo una mano, se chiedi un aiuto ti tendo una mano e prendi la mano. Ma se il professor Manning guarda la lunghezza delle dita, cosa guardano invece delle nostre mani un chirurgo della mano e un dermatologo? Qua in studio con me ho il professor Marco Cusini, dermatologo della Clinica Dermatologica del Policlinico di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Lei cosa guarda? Innanzitutto mi stavo guardando la lunghezza anch'io dell'anulare, perché è un maschio. Perché questo, e sono un maschio assolutamente, e quindi anch'io devo fare queste valutazioni. Ma noi le mani le guardiamo e come, poi le mani spesso insieme al volto sono il primo impatto con il paziente, e pensate che dalle mani possiamo sospettare e fortemente sospettare moltissime malattie. Alcune malattie infettive, mi riferisco per esempio alla sifilide o alla scabbia, che hanno dei segni che noi medici chiamiamo patognomonici, cioè assolutamente caratteristici a livello delle mani, così come altre malattie, alcune malattie reumatiche importanti, alcune malattie dell'autoimmunità hanno a livello delle mani delle manifestazioni così caratteristiche che ci fanno porre il sospetto. Poi ci sono anche le cose più semplici. Dalle mani possiamo valutare, per esempio, insieme al volto ovviamente, quanto un soggetto che si presenta davanti a noi abbia disatteso o atteso le nostre raccomandazioni in rapporto, per esempio, all'esposizione solare. Ai raggi solari, certo. Certo, e invece i nostri ascoltatori che cosa potrebbero osservare, oltre che mi state scrivendo, e siete tutti uomini a scrivermi sulla lunghezza del vostro anulare, e nessuna donna mi scrive dell'indice. Comunque continuate a farlo, potete anche chiamarci 800 24 00 24, non solo della lunghezza delle dita, ma parleremo anche dell'aspetto delle dita, della pelle delle mani. Certo, anche un paziente ovviamente può valutare in qualche modo, guardandosi le mani, quanto sia possibile per paziente o soggetto che sia continuare con l'esposizione al sole, quindi le mani come segno di fotoinvecchiamento, di fotodanneggiamento, ma non solo quello, anche ovviamente il segno delle mani come buon uso o cattivo uso delle mani, buona igiene o cattiva igiene delle mani. Ci sono un po' di leggende metropolitane in questo senso: il lavarsi troppo, il lavarsi poco, il non lavarsi affatto. Ecco, già questa è un'indicazione, come lavarsi, eh? Ma abbiamo anche in linea con noi il professor Giorgio Paiardi, che è tornato a trovarci, direttore dell'Istituto di Chirurgia Plastica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Unità Operativa di Chirurgia della Mano al Policlinico Multimedica, nonché presidente della Società Italiana di Chirurgia della Mano. Buongiorno professore, finalmente arrivo a lei. Buongiorno, è un piacere di sentirsi, Nicoletta, buongiorno. Professore, io vorrei sapere lei invece come e cosa guarda nelle mani. Ma visto che io guardo tutto, perché la mano evidentemente è l'unico organo, almeno alle nostre latitudini, che insieme al volto è il nostro biglietto da visita, perché è abitualmente scoperto, e quindi la valenza sociale della mano è uguale a quella del volto. Sì. E ed è ugualmente importante evidentemente la valenza funzionale, ma visto che parliamo di dita, di posizione e di misura, come primo elemento di impatto mi viene in mente che questa misura può essere significativamente alterata se la posizione del dito non può più essere riportata alla sua estensione, cioè se io ho una mano che è forzatamente o chiusa o semichiusa, nessuno degli ascoltatori in questo momento potrebbe misurarsi l'anulare, può misurare, quindi un dato alterato, e soprattutto ha difficoltà a lavarsi il volto, perché se il dito è piegato si mette un dito in un occhio banalmente, oppure quando dà la mano a qualcuno che ne incontra per strada può pensare a qualche gesto così non cordiale. E quindi fondamentalmente ci sono due situazioni più classiche che evocano questa flessione di solito del quarto dito, a volte del quinto. Uno, abbiamo avuto modo di parlarne in passato, che è il dito a scatto, cioè il dito che si blocca per un problema infiammatorio, è doloroso e non si riporta più nella posizione sua abituale di apertura o di chiusura fluida. L'altra invece è il morbo di Dupuytren, così descritto dal barone Dupuytren, che era chirurgo dei tempi di Napoleone, la descrisse come la malattia del cocchiere. Noi oggi di carrozze ne abbiamo molto poche, ma evidentemente la patologia che è trasmessa per via ereditaria c'è ancora, e a differenza dell'altra non dà nessuna sintomatologia, quindi il dito è piegato, posso anche prenderlo con tutte le mie forze ma non si raddrizza perché c'è un cordone nel palmo della mano che lo obbliga a piegarsi. Sì. E quindi questo, insomma, la mano si accartoccia un po'. Questo spunto, questo per parlare di questa malattia, mi permette, così come grande interesse per tutti, di citare che l'Italia è al primo posto in una ricerca internazionale su un farmaco che può essere iniettato localmente, sciogliendo il cordone ed evitando così un lungo intervento chirurgico con un importante post-operatorio. Quindi questa è una bellissima notizia. La medicina va avanti e permettetemi di dire, come presidente della società scientifica, che l'Italia è al primissimo posto nello sviluppo della ricerca in tutti i campi della medicina. Quindi siamo in buone mani. A proposito di mani, e quindi, almeno noi ci crediamo molto. Quindi mi scusi ai miei ascoltatori, che io ho particolarmente a cuore, io posso dire, se vi siete riconosciuti in questa descrizione, vi si piega il quarto dito, la mano vi si accartoccia, rimandate l'intervento perché potreste evitarlo tra poco? Assolutamente, in fase sperimentale per i centri italiani autorizzati lo stanno già evitando adesso, abbiamo già trattato molti pazienti su tutto il territorio nazionale e dalla primavera in poi basterà andare in farmacia. Mi stringa la mano, ecco, è proprio come pensavo. Perché, come pensava, è successo qualcosa che non va? La sua postura, curva, incerta, esitante, il suo sguardo perennemente alla ricerca di una risposta tra i piedi del suo interlocutore, il suo timbro di voce, debole e tremolante, ma soprattutto la sua stretta di mano, indecisa, arrendevole, è l'anticamera della sconfitta. Quel giornalista non la citerà mai nel suo articolo, anzi sono sicuro che si sarà già completamente dimenticato di lei. Ma veramente? Veramente? Ma certo, la stretta di mano è fondamentale, il suo biglietto da visita, stia a vedere. Stretta di mano rapida, decisa, sicura, è sintomo di sicurezza e autostima. Ma se non la sciolgo per tempo, diventa una stretta di mano infinita, sintomo di invadenza, capisce quello che intendo? Certo, però io questa stretta ce l'ho ormai da 30 anni, come faccio a cambiarla? Vida di lavorarci, in questo ambiente si rischia di perdere tutto per una stretta di mano sbagliata. Quante volte è stato promosso da quando è qui? Mai. E questo non le dice niente? E noi spesso salutiamo in modo automatico, stringiamo la mano perché così ci hanno insegnato, senza curarci, senza ricordarci che questo semplice gesto produce degli effetti, incide molto sulla prima impressione che ci si fa dell'altro. Ci sono delle persone che salutano in punta di dita, con una mano che sembra svenuta, altre che ti afferrano la mano e non te la mollano più. Pensate a come stringete la mano e a qual è la stretta, quale stretta vi piace ricevere. 800 24 00 24. Ma dottor Cusini, il modo di stringere la mano l'ha anticipato il dottor Paiardi, ma anche lei come dermatologo può raccontarcelo, può dipendere anche da altri fattori, ad esempio la mano sudata, che a uno magari non è che faccia tanto piacere offrire una mano sudaticcia, oppure screpolata, oppure con dei taglietti, oppure dolente, oppure quindi... fa male, quindi non si riesce a stringere la mano perché la mano fa male, oppure con lesioni che in qualche modo rendono difficile mostrare le proprie mani. Una delle malattie cutanee più frequenti, che è la psoriasi, di cui credo si sia già parlato altre volte, ha delle manifestazioni molto frequenti alle mani, e sono delle manifestazioni che rendono impossibile non solo la stretta della mano, ma numerose attività quotidiane, certo, rendono difficile afferrare gli oggetti o contare le monete, quindi insomma. Gabriella ci chiama da Lecco, poi abbiamo Alessandro dalla provincia di Pisa. Buongiorno Gabriella, ciao, benvenuta. Nicoletta. Buongiorno dottore. Volevo, ecco, così proprio in sintesi, mio marito è sempre stato una persona che ha lavorato in ufficio, eccetera. Ma l'anulare quanto ce l'ha lungo? Più alto del... non glielo ho mai misurato. Gabriella, ci rifletta, lo farò, ci pensi. Lo farò. Vada a casa a dare una controllatina. No, sono a casa, solo che lui è uscito a farsi la spesa. Ascolti, dottore, mio marito ha proprio dei dolori al, diciamo, ai due pollici, ai due pollici, diciamo nella zona che si chiama, no, perché abbiamo degli amici della nostra età, noi abbiamo 64 anni, e tunnel carpale, no? Lì sopra. Insomma, Gabriella si è fatta già un po' la diagnosi, a tutte e due i pollici, dice Gabriella. I pollici. Solo che il nostro medico di famiglia non è d'accordo con la diagnosi che ha fatto lei. No. Ma questi medici non sempre sono d'accordo con noi. Sentiamo un parere super partes. Professor Pagliardi. Allora, diciamo che la perplessità del suo medico può derivare dal fatto che in realtà il pollice è molto più del 50% della mano da solo. Sì. È l'elemento che ci distingue in tutto il mondo animale, a volte accompagnato anche da un po' più di intelligenza, ma su quello ne discuterà in un'altra trasmissione, e quindi la mobilità del pollice connota l'essere umano. Quindi la mobilità del pollice in quanto forza, in quanto sensibilità è effettivamente regolata dal nervo mediano, la cui sofferenza dà la sindrome del canale carpale. Il dolore invece localizzato sul pollice può essere anche legato o a uno scorrimento del tendine, abbiamo prima accennato al didascato, oppure da un problema articolare, e il problema è concentrato sull'articolazione trapezio metacarpica, la cui alterazione comporta la artrosi, o detta anche rizartrosi. Per calmare il dolore, calmare il dolore, così rispondiamo anche ai tanti ascoltatori che hanno proprio il loro tallone d'Achille nel pollice, ci sono delle, non so, va meglio il caldo, va meglio il freddo, bisogna mettere un tutore, lo teniamo un po' a riposo. Certo che tenere a riposo il pollice dura, perché non riusciamo più ad afferrare le cose, ma professore? Dunque, in schema, sicuramente affidarsi a un terapista, sia esso fisioterapista, terapista occupazionale della mano, che confeziona ad hoc un tutore, è l'elemento lenitivo più importante. Sì. Il tutore si porta di notte, non di giorno, e aiuta a diminuire il fastidio. Ha fatto bene a dircelo. Dopodiché la diagnosi, quindi l'elettromiografia per valutare se è fiammato il nervo, o una radiografia delle due mani per vedere se è l'articolazione, è un momento diagnostico fondamentale. Se il problema è di tipo articolare, il trattamento conservativo di tipo fisioterapico porta ad avere beneficio in più dell'80% dei casi. Se invece è il nervo infiammato per la sindrome del canale carpale, l'unica scelta è quella chirurgica, meglio se per via endoscopica. Mario ci chiama da Padova, buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno Mario. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ospiti. Buongiorno. Ecco, volevo dire che io invece ho il vizio, e non me ne rendo conto, quando stringo la mano a qualcuno di stringerla troppo forte. Allora, molti lo apprezzano perché dicono piuttosto che la mano moscia, però sì, molte volte... È vero. Ma sa che io Mario l'avrei immaginata, che una stretta bella vigorosa? Si capisce dalla voce. Adesso non azzardo a dirle se ha l'anulare più o meno lungo dell'indice, ma me lo sarei aspettato una stretta vigorosa. dolorosa. L'anulare è molto più lungo dell'indice. L'anulare. Non dubitavamo. Allora, Mario, dottor Cusini, meglio comunque una stretta bella energica. L'importante è che non duri troppo a lungo, Mario. Perché sennò uno non riesce più a liberare la mano. Grazie a Mario che ci ha chiamato. Adesso andiamo ai mercati, poi al meteo, poi di nuovo insieme con le vostre telefonate e i consigli dei nostri esperti. Essere e benessere. Qua la mano, siamo tornati. 800 24 00 24. Alessandro ci chiama dalla provincia di Pisa. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi e a lei e ai suoi ospiti. Senta, io premetto che sono un artigiano e faccio l'idraulico. Sì. E ho un problema sulla mano destra. Circa 2 anni fa l'indice e l'anulare hanno cominciato durante l'inverno a raffreddarsi. Cioè, dei momenti sentivo del dolore con del freddo. Sì. Però adesso mi è successo anche che mi sono fermato all'altezza della prima falange, il nervo mi è venuto un periodo tipo il dito a scatto. Sì. E adesso no, però mi è rimasto un forte dolore e sulla seconda falange mi sembra che si sia indurita e è diminuito il movimento. Professor Pagliardi, teniamoli da conto questi idraulici, perché poi quando uno li cerca non ci sono mai, ecco, quindi devono avere delle mani super funzionanti. Sono sicuramente più preziosi e più introvabili dei chirurghi. Sì. Direi che il problema che ha evidenziato l'ascoltatore è rappresentato da evoluzione di un unico aspetto, verosimilmente, ossia un tendine che si è infiammato, da prima ha dato una fase acuta che lui stesso ha autodiagnosticato come dito a scatto, e di fronte però alla mancata regressione dell'infiammazione probabilmente non è corso ai ripari aiutando con alcune posizioni corrette e degli opportuni tutori questo povero dito, il quale si è sovraccaricato e quindi l'infiammazione è diventata, si dice, cronica. Quindi, cioè, professor Pagliardi, per trovare spunto per avere uno spunto dalla storia del nostro ascoltatore, quando le dita iniziano a essere dolenti, cambiano, cioè magari si piegano, la prima mossa da fare è dare loro un po' di sollievo, quindi i tutori preparati naturalmente su misura ad hoc, e cercare di almeno durante la notte di sollevarli, no? per riportarli nella giusta posizione. È questo che dobbiamo dire? Esatto. Direi che bisogna favorire la guarigione spontanea, è come sempre la prima scelta. Certo. Quando si tratta, diciamo, di tessuti come i tendini, le articolazioni, i legamenti che lo sono sensibili, rispetto ad attendere che il problema si cronicizzi andando incontro a un intervento che si potrebbe evitare. Quindi non trascurateli. Invece per il professor Cusini vorrei rispondere ad un messaggio che mi scrive Ale. Il mio titolare ha le mani piene di verruche, sono contagiose, posso fare qualcosa per difendermi? Qualche volta le ho fatte bruciare, rispondete per favore. Ecco, proprio ci sono delle situazioni in cui noi dobbiamo afferrare, no? Dare la mano, e vediamo che l'altra mano ha questi piccoli problemi che però noi diciamo, ma me li può passare? È una domanda molto interessante. Non si passano le verruche, si passa il virus delle verruche. Il virus delle verruche è il famoso virus HPV, di cui abbiamo parlato. Certo. Anche per il cancro della cervice uterina. La famiglia è sempre quella, Human papilloma virus. Ce ne sono tanti tipi, alcuni prediligono alcuni distretti del nostro corpo, altri prediligono le mani. Col virus HPV veniamo in contatto obbligatoriamente durante la nostra vita, prima o poi. È inevitabile non venire a contatto con un virus HPV. Quindi il problema non è tanto quindi del contatto, che direi è inevitabile, quanto poi di cosa succede del virus HPV che in qualche modo entra nella nostra pelle, solo nella nostra pelle per adesso. Penso, ecco. Per carità divina, siamo ai primi danni. A dire che possiamo fare su 100 persone che acquisiscono un'infezione da HPV, forse solo 2 o 3 avranno le verruche nel corso della loro vita. Gli altre 97 saranno in grado perfettamente di difendersi da loro. È evidente che ci può essere una correlazione tra la quantità di virus che viene in qualche modo a contatto con un individuo sano e il rischio di acquisire delle verruche, quindi diciamo, o anche alcune quindi situazioni tante ambientali. Tante verruche? Ma non è così facile dirlo, io non avrei tanta paura, nel senso Beh, che ma lei fa il dermatologo, io faccio paura il dermatologo di... cioè, lei non e non ho testo. Paura delle verruche. Senta, ma queste verruche, che abbiamo capito che c'è questo virus, certo. Le prendiamo però più spesso, ad esempio chi frequenta le piscine, chi non... Chi frequenta le piscine le prende più spesso perché l'ambiente umido della piscina favorisce in qualche modo la penetrazione del virus, non perché le piscine siano... Qua, così chiariamo già. Ma io volevo chiedere, si fanno bruciare come ci suggeriva il nostro ascoltatore o vanno bene quei liquidini che si vendono in farmacia, cerottini, liquidini, cose che seccano, che scavano? La brutta notizia è che non esiste nessuna terapia che ammazzi o elimini il virus. Sì. Tutte le terapie che noi siamo in grado di utilizzare per le verruche sono, forzando un pochettino il concetto, delle terapie cosmetiche. Noi facciamo un'operazione cosmetica, togliamo una cosa brutta che non ci piace, che a volte ci dà fastidio, ma non siamo in grado di agire sul virus. Il virus può persistere all'interno della lesione, anche se usiamo delle metodiche molto cruente, molto... se cerchiamo di togliere tutto, ma non è questione di togliere tutto o togliere poco, è questione di come il virus poi... Senta, poi chiudiamo questa cosa sul virus, anche se gli ascoltatori mi stanno scrivendo che hanno grande interesse, ma vogliamo parlare anche d'altro, se no non posso più essere trasversale. Com'è possibile che mia figlia 13enne, scusate, vaccinata per papilloma abbia preso una verruca al piede? Perché la vaccinazione per il papilloma è fatta per il tipo 6, il tipo 11, il tipo 16 e il tipo 18. I Nelle verruche tipi. L'1, il 4, il 7 sono perché altri tipi. Il papilloma virus è una famigliona, loro hanno individuato certo. alcuni gruppi e sulle verruche. Le verruche sono altri virus. Allora, noi andiamo da Paola che ci chiama da Roma. Buongiorno Paola, benvenuta. Buongiorno, grazie per la sua amabilità, Nicoletta. Grazie, Paola. Allora, lei avrà un indice molto sviluppato, è sensibile. Vede. E darà la mano anche bene e non ha le verruche, vero Paola? Certo. Ecco. Però una piccola cosa di estetica, ma una domanda. Ho le unghie a righe. Beh, qualche cosa bisogna avere, no Paola? Le unghie a righe, certo. Perché le unghie a righe, professor Cusini? Le unghie vengono a righe longitudinali o trasversali? No, longitudinali. Longitudinali. Le unghie a righe longitudinali perché la lamina ungueale, cioè la nostra unghia, è prodotta da una zona del nostro dito che sta appena a monte dell'unghia, che si chiama zona della matrice ungueale, che può subire nel corso degli anni dei danni e dei danneggiamenti e che qualche volta non funziona bene o non funziona alla stessa maniera dappertutto. Questo provoca il fatto che la lamina che venga prodotta viene prodotta in modo irregolare. E non si può fare nulla? Gli smalti sono meravigliosi. Gli smalti, Paola, ci consiglia un dermatologo che ci consiglia anche lo smalto, ma dove lo troviamo? Allora, intanto George Clooney, Valentino Rossi, Angelina Jolie, Brad Pitt. Io non ho mai avuto l'onore di stringere la mano, anche Obama, Però pensate che ho qualcosa in comune con loro, perché siamo tutti mancini e finalmente, ecco, anche Roberto Scaltritti in regia, la parte tecnica, anche il professor Cusini. Ma insomma, lo sapete che è arrivato il nostro momento, noi possiamo finalmente prenderci la nostra rivincita. Siamo intelligenti, creativi, simpatici, a dirlo modestamente non sono io, ma è una sequela di studi scientifici. In linea con noi abbiamo il professor Giacomo Koch, ricercatore di neurologia all'Università Tor Vergata di Roma e di neurofisiologia alla Fondazione Santa Lucia. Professore, buongiorno. Lei è mancino o non è mancino? Io purtroppo sono un banale d'esprimane. Va bene, ma ci occuperemo di lei tra poco, perché magari i mancini lo si può anche diventare, magari non si nasce solo mancini, ma dobbiamo dare la linea al traffico. E poi, mancini in ascolto, scrivetemi 800 24 00 24 se volete chiamarmi. Essere e benessere. Mancini, è il nostro momento. Eccolo qua. Professor Koch, parli lei che Mancino non è. Allora, bisogna fare una piccola premessa prima di introdurre il concetto dell'importanza di essere mancini, cioè che il nostro cervello diciamo si è evoluto, come quello anche di altri mammiferi, con una spiccata tendenza alla simmetria, questo per garantire un'aumentata efficienza diciamo dell'attività nervosa. Sì. E questo è interessante perché è un tratto che si è visto essere presente fin dai tempi della preistoria, si è visto ad esempio che gli uomini Neanderthal avevano una prevalenza delle ossa del lato destro, oppure c'era un'evidenza nelle pitture murale di Altamira in diretta del fatto che si preferisse utilizzare la mano destra. È vero che questa spiccata prevalenza diciamo all'essere avere una maggiore tendenza a usare la mano destra, però si è sempre accompagnata anche a una quota minore di soggetti che invece avevano una simmetria differente, cioè con una tendenza ad essere mancini. Sì. E la cosa interessante è che questa tendenza, che diciamo la prevalenza è circa del 10% nella popolazione, si è mantenuta costante durante l'evoluzione, quindi l'idea è che abbia comunque un suo vantaggio essere mancini, e si sono fatti quindi molti studi a questo riguardo che hanno evidenziato principalmente che i soggetti che sono mancini hanno una serie di vantaggi, ad esempio una maggiore coordinazione nell'utilizzo delle due mani, e questo sembra essere dovuto a una maggiore trasmissione di informazione tra i due emisferi. Certo. Infatti si è visto che il corpo calloso, la struttura più importante nella trasmissione dell'informazione degli emisferi, sembra essere più rappresentato. Quindi noi siamo più, riusciamo a fare anche più cose, Esatto, siamo tutte quelle cose che fanno con le due mani insieme le fanno meglio i mancini. Poi siamo l'altra creativi. Cosa, esatto, l'altra cosa molto interessante è che voi siete appunto più creativi. Mi piace quando mi dice voi siete. e poi ho letto, ma mi dica se è vero, in una ricerca hanno visto persone che avevano un quoziente intellettivo elevatissimo, esatto. C'erano un sacco di mancini lì dentro. Un sacco di mancini, a cominciare da Leonardo, insomma, vedete, gli esempi illustri non mancano. Senta, però c'è una buona notizia, perché la predisposizione ad essere mancini non è solo genetica. Esattamente. Ecco. E quello che si è visto, c'è una quota genetica importante, per esempio se due genitori sono mancini la probabilità che il figlio sia mancino è più alta del 30%. Certo. Rispetto al 10% normale, però si è visto che una grande quota di soggetti mancini non ha una predisposizione genetica, ma in qualche modo sviluppa una tendenza ad essere mancino o per modificazioni nel corso della vita intrauterina, oppure alla nascita, o addirittura nelle prime fasi dello sviluppo per motivi ambientali o culturali. Quindi noi siamo insieme al professor Cusini parlavamo, e molti dei mancini quando erano a scuola venivano corretti, ed adesso finalmente le maestre lasciano i bambini liberi di scrivere con la destra o con la sinistra. Allora adesso, professor Cusini, diciamo un po' a quelli che usano la destra, provate a diventare un po' mancini anche voi, aiuta. Grazie al professor Koch per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata. Paolo da Milano, buongiorno. Eccomi qua. Eccola. Allora, il problema che io riscontro nelle mie mani, sì, è un disturbo che si manifesta in corrispondenza dell'attaccatura delle unghie, prevalentemente sul pollice, l'indice e anche il medio. Sì. Cioè nel senso mi si spacca la pelle, mi si formano proprio dei veri e propri tagli, a volte anche abbastanza profondi. E lei, Paolo, si lamenterà un sacco. È abbastanza. Sì. Devo dire che nella mia professione non uso le mani, cioè oddio, come le uso, perché sì, però non prevalentemente. Ma scusi, che lavoro fa? Io faccio il docente e sono anche un libero professionista. Ah, no, pensa. Professor Cusini, un aiutino a Paolo? Apre un capitolo lunghetto, quello delle dermatiti da contatto alle mani, dermatiti da contatto che vanno subito divise in due, le DIC e le DAC. Dermatite irritative da contatto e le dermatiti allergiche da contatto. Come si fa a capire se un DIC o un DAC? Non è così facile, purtroppo. Bisogna, ovviamente, ci sono dei test che possono escludere una DAC o concludere per una DAC. Innanzitutto la DIC, che cos'è? La DIC è una dermatite irritativa, vuol dire che in qualche modo le nostre mani non sono sufficientemente protette, manca loro una sufficiente film di protezione che separi, diciamo così, quella che è la pelle vera e propria dall'ambiente esterno. Quindi si nasce già così, ma loro possono o si nasce fare... o si diventa, sì, se ma... fa il docente universitario forse è nate, o il docente se sì. fa l'idraulico forse lo diventa, perché ovviamente una maggiore protezione può essere una maggiore protezione la si acquisisce con l'utilizzo di alcune creme. Oggi esistono delle meravigliose creme barriera che proprio in qualche modo sostituiscono questa barriera o aiutano a sostituire la barriera. Certo, le mani le usiamo sempre, sotto una campana di vetro guariscono le mani, ma sotto una campana di vetro non possiamo vivere. Professor Paiardi, prima siamo quasi in chiusura e intanto voglio salutare anche il dottor Mauro Mocci, che so che ci ha chiamato. Buongiorno, buongiorno, medico dell'Associazione buongiorno. Medici per l'Ambiente. Abbiamo pochi minuti. Professor Paiardi, il tunnel carpale, chiedono in coro i miei ascoltatori, va sempre operato? La sindrome del canale carpale è una patologia a carico dell'ambiente che circonda il nervo e i nervi in quanto tali devono essere trattati bene, che sia la vista, che sia l'udito, che sia il canale carpale, che sia la nevralgia del trigemino. Se noi non siamo corretti e tempestivi, il dolore e poi l'infiammazione si cronicizza e diventa più difficilmente governabile. Quindi quando il nervo non ha spazio, perché sì. il problema è proprio meccanico, l'unica soluzione è allargare il canale. Nelle fasi molto iniziali, cioè quelle in cui il paziente ha il formicolio sì. oppure cade l'oggetto e l'elettromiografia è ancora negativa, un trattamento posturale con un tutore, con un terapista occupazionale è un grosso beneficio. Però nella maggior parte dei casi arriviamo alla diagnosi con l'elettromiografia già positiva, certo, e a questo punto bisogna andare. Soluzione è essere poco invasivi con l'endoscopia certo. e dare beneficio al paziente. Dottor Mocci, buongiorno. Lei lo sa che io ho 30 secondi, ma ero così contenta che lei, sentendoci, ci avesse chiamato per dire, forse lei fa il medico dell'ambiente. Per dirvi che le dita possono essere una spia anche per quanto riguarda le patologie respiratorie. Con l'ingrossamento della parte distale delle dita, cioè la falange distale, l'ultima parte che assume, la parte distale delle dita che assume un aspetto cosiddetto definito a bacchetta di tamburo, quindi sì. si allargano un pochettino, e queste sono una spia di un disturbo respiratorio, e quindi è molto importante. Caspita, sei importante. Guardatevi, e quindi noi chiudiamo la trasmissione dicendo: osservatevi le mani, non state sempre a misurare quell'anulare. Buona giornata da Nicoletta, ci vediamo, anzi, ci sentiamo domani. Grazie ai miei esperti. Essere e benessere.